4. Pianola Meccanica. Sconvolgimento economico. Le tre sezioni precedenti riguardavano essenzialmente i rischi per la sicurezza posti dall'IA potente. Rischi dall'IA stessa. Rischi dall'uso improprio da di parte individui e piccole organizzazioni e rischi di uso improprio da di parte stati e grandi organizzazioni. Se mettiamo da parte rischi per la sicurezza o assumiamo che siano stati risolti, la domanda successiva è economica. Quale sarà l'effetto di questa infusione di incredibile capitale umano sull'economia? Chiaramente, l'effetto più ovvio sarà quello di aumentare notevolmente la crescita economica. Il ritmo dei progressi nella ricerca scientifica, nell'innovazione biomedica, nella produzione, nelle catene di approvvigionamento, nell'efficienza del sistema finanziario e molto altro porterà quasi certamente a un tasso di crescita economica molto più rapido. In macchine di amorevole grazia, suggerisco che un tasso di crescita annuale del PIL sostenuto del 10-20% potrebbe essere possibile. Ma dovrebbe essere chiaro che questa è un'arma a doppio taglio. Quali sono le prospettive economiche per la maggior parte degli umani esistenti in un mondo del genere? Le nuove tecnologie portano spesso shock al mercato del lavoro, e in passato gli umani se ne sono sempre ripresi. Ma sono preoccupato che ciò sia perché questi shock precedenti hanno colpito solo una piccola frazione dell'intera gamma possibile di abilità umane, lasciando spazio agli umani per espandersi verso nuovi compiti. L'IA avrà effetti molto più ampi e avverranno molto più velocemente, e quindi temo che sarà molto più difficile far funzionare le cose per il meglio. Sconvolgimento del mercato del lavoro. Ci sono due problemi specifici di cui sono preoccupato: lo spostamento del mercato del lavoro e la concentrazione del potere economico. Cominciamo con il primo. Questo è un argomento su cui ho messo in guardia pubblicamente nel 2025, dove ho previsto che l'IA potrebbe spostare la metà di tutti i lavori d'ufficio entry level nei prossimi 1-5 anni, anche mentre accelera la crescita economica e il progresso scientifico. Questo avvertimento ha avviato un dibattito pubblico sull'argomento. Molti CEO, tecnologi ed economisti erano d'accordo con me, ma altri presumevano che stessi cadendo preda di una fallacia della massa fissa di lavoro e che non sapessi come funzionano i mercati del lavoro. E alcuni non hanno visto l'arco temporale di 1-5 anni e pensavano che stessi affermando che l'IA sta spostando posti di lavoro proprio ora. Quindi vale la pena esaminare in dettaglio perché sono preoccupato per lo spostamento del lavoro, per chiarire questi malintesi. Come base di partenza, è utile capire come i mercati del lavoro normalmente rispondono ai progressi della tecnologia. Quando arriva una nuova tecnologia, inizia rendendo più efficienti parti di un determinato lavoro umano. Ad esempio, all'inizio della rivoluzione industriale, macchine come gli aratri migliorati hanno consentito agli agricoltori umani di essere più efficienti in alcuni aspetti del lavoro. Ciò ha migliorato la produttività degli agricoltori, aumentando i loro salari. Nel passaggio successivo, alcune parti del lavoro agricolo potevano essere svolte interamente da macchine, ad esempio con l'invenzione della trebbiatrice o della seminatrice meccanica. In questa fase, gli umani svolgevano una percentuale sempre minore del lavoro, ma il lavoro che svolgevano diventava sempre più sfruttato perché complementare al lavoro delle macchine, e la loro produttività continuava a crescere. Come descritto dal paradosso di Jevons, i salari degli agricoltori e forse persino il numero di agricoltori continuavano ad aumentare. Anche quando il 90% del lavoro è svolto da macchine, gli umani possono semplicemente fare 10 volte di più del 10% che fanno ancora, producendo 10 volte più output per la stessa quantità di lavoro. Alla fine, le macchine fanno tutto o quasi, come con le moderne mietitrebbiatrici, trattori e altre attrezzature. A questo punto, l'agricoltura come forma di impiego umano entra effettivamente in forte declino, e questo potenzialmente causa gravi disagi a breve termine. Ma poiché l'agricoltura è solo una delle tante attività utili che gli umani sono in grado di svolgere, le persone alla fine passano ad altri lavori, come operare macchinari di fabbrica. Questo è vero anche se l'agricoltura rappresentava un'enorme percentuale dell'occupazione ex ante. 250 anni fa, il 90% degli americani viveva in fattorie. In Europa, il 50-60% dell'occupazione era agricola. Ora queste percentuali sono una cifra bassa in quei luoghi, perché i lavoratori sono passati a lavori industriali. L'economia può fare ciò che prima richiedeva la maggior di parte della forza lavoro con solo l'1-2% di essa, liberando il resto della forza lavoro per costruire una società industriale sempre più avanzata. Non c'è una massa fissa di lavoro fissa, solo una capacità in continua espansione di fare sempre di più con sempre meno. I salari delle persone aumentano in linea con l'esponenziale del PIL e l'economia mantiene la piena occupazione una volta superati i disagi a breve termine. È possibile che le cose vadano più o meno allo stesso modo con l'IA, ma scommetterei piuttosto decisamente contro. Ecco alcune ragioni per cui penso che l'IA sarà probabilmente diversa. Velocità. Il ritmo del progresso nell'IA è molto più veloce rispetto alle precedenti rivoluzioni tecnologiche. Ad esempio, negli ultimi 2 anni, i modelli di IA sono passati dall'essere a malapena in grado di completare una singola riga di codice, a scrivere tutto o quasi tutto il codice per alcune persone, inclusi ingegneri di Anthropic. Presto, potrebbero svolgere l'intero compito di un ingegnere software dall'inizio alla fine. È difficile per le persone adattarsi a questo ritmo di cambiamento, sia ai cambiamenti nel modo in cui un determinato lavoro funziona, sia alla necessità di passare a nuovi lavori. Persino programmatori leggendari si descrivono sempre più come indietro. Il ritmo potrebbe semmai continuare ad accelerare, poiché i modelli di codifica IA accelerano sempre più il compito dello sviluppo dell'IA. Per essere chiari, la velocità di per sé non significa che i mercati del lavoro e l'occupazione non si riprenderanno alla fine. Implica solo che la transizione a breve termine sarà insolitamente dolorosa rispetto alle tecnologie passate, poiché gli umani e i mercati del lavoro sono lenti a reagire e a trovare un equilibrio. Ampiezza cognitiva. Come suggerito dalla frase paese di geni in un data center, l'IA sarà capace di una gamma molto ampia di abilità cognitive umane, forse tutte. Questo è molto diverso dalle tecnologie precedenti come l'agricoltura meccanizzata, i trasporti o persino i computer. Ciò renderà più difficile per le persone passare facilmente dai lavori che vengono spostati a lavori simili per i quali sarebbero adatte. Ad esempio, le abilità intellettuali generali richieste per i lavori entry level in, diciamo, finanza, consulenza e legge sono abbastanza simili, anche se la conoscenza specifica è piuttosto diversa. Una tecnologia che sconvolgesse solo uno di questi tre consentirebbe ai dipendenti di passare agli altri due sostituti stretti. Ma sconvolgerli tutti e tre contemporaneamente potrebbe essere più difficile da gestire per le persone. Inoltre, non è solo che la maggior di parte dei lavori esistenti sarà sconvolta. Questa parte è già successa. Ricordiamo che l'agricoltura era un'enorme percentuale dell'occupazione. Ma gli agricoltori potevano passare al lavoro relativamente simile di operare macchinari di fabbrica, anche se quel lavoro non era comune prima. Al contrario, l'IA sta sempre più eguagliando il profilo cognitivo generale degli umani, il che significa che sarà brava anche nei nuovi lavori che verrebbero normalmente creati in risposta all'automazione di quelli vecchi. Un altro modo per dirlo è che l'IA non è un sostituto per specifici lavori umani, ma piuttosto un sostituto generale del lavoro per gli umani. Segmentazione per abilità cognitiva. In un'ampia gamma di compiti, l'IA sembra progredire dal basso verso l'alto della scala delle abilità. Ad esempio, nella programmazione i nostri modelli sono passati dal livello di un programmatore mediocre a un buon programmatore a un programmatore molto valido. Stiamo ora iniziando a vedere la stessa progressione nel lavoro d'ufficio in generale. Siamo quindi a rischio di una situazione in cui, invece di colpire persone con competenze specifiche o in professioni specifiche, l'IA colpisce persone con certe proprietà cognitive intrinseche, vale a dire una minore abilità intellettuale. Non è chiaro dove andranno queste persone o cosa faranno, e sono preoccupato che potrebbero formare un sottoproletariato disoccupato o con salari molto bassi. Per essere chiari, cose simili sono già successe prima. Ad esempio, i computer e internet sono ritenuti da alcuni economisti come rappresentanti di un cambiamento tecnologico orientato alle competenze. Ma questo orientamento alle competenze non era così estremo come quello che mi aspetto di vedere con l'IA, e si ritiene abbia contribuito a un aumento della disuguaglianza salariale, quindi non è esattamente un precedente rassicurante. Capacità di riempire le lacune. Il modo in cui i lavori umani spesso si adattano di fronte alle nuove tecnologie è che ci sono molti aspetti del lavoro, e la nuova tecnologia, anche se sembra sostituire direttamente gli umani, ha spesso delle lacune. Se qualcuno inventa una macchina per fare widget, gli umani potrebbero dover ancora caricare la materia prima nella macchina. Anche se ciò richiede solo l'1% dello sforzo di fare i widget manualmente, i lavoratori umani possono semplicemente fare 100 volte più widget. Ma l'IA, oltre ad essere una tecnologia in rapido progresso, è anche una tecnologia in rapido adattamento. Durante ogni rilascio di modello, le aziende di IA misurano attentamente ciò in cui il modello è bravo e ciò in cui non lo è, e anche i clienti forniscono tali informazioni dopo il lancio. I punti deboli possono essere affrontati raccogliendo compiti che incarnano la lacuna attuale e addestrandoli per il modello successivo. Agli albori dell'IA generativa, gli utenti hanno notato che i sistemi di IA avevano certi punti deboli e molti presumevano che questi punti deboli fossero intrinseci alla tecnologia. Se lo fossero, limiterebbe lo sconvolgimento del lavoro. ma praticamente ogni punto debole del genere viene affrontato rapidamente, spesso, nel giro di pochi mesi. Vale la pena affrontare i punti comuni di scetticismo. Innanzitutto, c'è l'argomento che la diffusione economica sarà lenta, tale che anche se la tecnologia sottostante è capace di svolgere la maggior di parti il lavoro umano, l'effettiva applicazione nell'economia potrebbe essere molto più lenta. La lenta diffusione della tecnologia è sicuramente reale. Parlo con persone di un'ampia varietà di imprese, e ci sono luoghi in cui l'adozione dell'IA richiederà anni. Ecco perché la mia previsione per il 50% dei lavori d'ufficio entry level sconvolti è di 5 anni, anche se sospetto che avremo un'IA potente in molto meno di 5 anni. Ma gli effetti di diffusione ci fanno semplicemente guadagnare tempo. E non sono fiducioso che saranno così lenti come la gente prevede. L'adozione dell'IA nelle imprese sta crescendo a tassi molto più rapidi di qualsiasi tecnologia precedente, in gran parte per la pura forza della tecnologia stessa. Inoltre, anche se le imprese tradizionali sono lente ad adottare nuove tecnologie, le start-up nasceranno per servire come collante e rendere l'adozione più facile. Se ciò non funziona, le start-up potrebbero semplicemente sconvolgere direttamente gli incumbent. Ciò potrebbe portare a un mondo in cui non è tanto che specifici lavori vengono sconvolti, quanto piuttosto che le grandi imprese vengono sconvolte in generale e sostituite da start-up molto meno labor intensive. Ciò potrebbe anche portare a un mondo di disuguaglianza geografica, in cui una frazione crescente della ricchezza mondiale è concentrata nella Silicon Valley, che diventa la propria economia che corre a una velocità diversa rispetto al resto del mondo e lo lascia indietro. Tutti questi esiti sarebbero ottimi per la crescita economica, ma non così ottimi per il mercato del lavoro o per coloro che vengono lasciati indietro. In secondo luogo, alcune persone dicono che i lavori umani si sposteranno verso il mondo fisico, che evita l'intera categoria di lavoro cognitivo in cui l'IA sta progredendo così rapidamente. Non sono sicuro di quanto sia sicuro anche questo. Molto lavoro fisico è già svolto da macchine o sarà presto svolto da macchine. Inoltre, un'IA sufficientemente potente sarà in grado di accelerare lo sviluppo di robot e poi controllare quei robot nel mondo fisico. Potrebbe far guadagnare un po' di tempo, ma temo che non ne guadagnerà molto. E anche se lo sconvolgimento fosse limitato solo ai compiti cognitivi, sarebbe comunque uno sconvolgimento senza precedenti per dimensioni e rapidità. In terzo luogo, forse alcuni compiti richiedono intrinsecamente o traggono grande beneficio dal tocco umano. Sono un po' più incerto su questo, ma sono ancora scettico che sarà sufficiente a compensare la maggior di parte degli impatti che ho descritto sopra. L'IA è già ampiamente utilizzata per il servizio clienti. Molte persone riferiscono che è più facile parlare con l'IA dei loro problemi personali che parlare con un terapeuta, che l'IA è più paziente. Quando mia sorella aveva problemi medici durante una gravidanza, sentiva di non ricevere le risposte o il supporto di cui aveva bisogno dai suoi medici, e ha trovato Claude con un miglior atteggiamento al letto del paziente. Sono sicuro che ci sono alcuni compiti per i quali il tocco umano è veramente importante, ma non sono sicuro di quanti, e qui stiamo parlando di trovare lavoro per quasi tutti nel mercato del lavoro. In quarto luogo, alcuni potrebbero sostenere che il vantaggio comparato proteggerà ancora gli umani. Secondo la legge del vantaggio comparato, anche se l'IA è migliore degli umani in tutto, qualsiasi differenza relativa tra il profilo di competenze umano e quello dell'IA crea una base di scambio e specializzazione tra umani e IA. Il problema è che se le IA sono letteralmente migliaia di volte più produttive degli umani, questa logica inizia a vacillare. Anche minuscoli costi di transazione potrebbero rendere non conveniente per l'IA commerciare con gli umani. E i salari umani potrebbero essere molto bassi, anche se tecnicamente hanno qualcosa da offrire. È possibile che tutti questi fattori possano essere affrontati, che il mercato del lavoro sia abbastanza resiliente da adattarsi anche a uno sconvolgimento così enorme. Ma anche se alla fine potesse adattarsi, i fattori sopra indicati suggeriscono che lo shock a breve termine sarà senza precedenti per dimensioni. Difese, cosa possiamo fare riguardo a questo problema? Ho diversi suggerimenti, alcuni dei quali Anthropic sta già attuando. La prima cosa è semplicemente ottenere dati accurati su ciò che sta accadendo con lo spostamento del lavoro in tempo reale. Quando un cambiamento economico avviene molto rapidamente, è difficile ottenere dati affidabili su ciò che sta accadendo, e senza dati affidabili è difficile progettare politiche efficaci. Ad esempio, i dati governativi attualmente mancano di dati granulari e ad alta frequenza sull'adozione dell'IA tra imprese e settori. Nell'ultimo anno, Anthropic ha operato e rilasciato pubblicamente un indice economico che mostra l'uso dei nostri modelli quasi in tempo reale, suddiviso per settore, compito, località e persino cose come se un compito fosse stato automatizzato o condotto in collaborazione. Abbiamo anche un consiglio economico consultivo per aiutarci a interpretare questi dati e vedere cosa ci aspetta. In secondo luogo, le aziende di IA hanno una scelta su come lavorare con le imprese. La stessa inefficienza delle imprese tradizionali significa che la loro implementazione dell'IA può essere molto dipendente dal percorso, e c'è un po' di margine per scegliere un percorso migliore. Le imprese hanno spesso una scelta tra risparmio sui costi e innovazione. Il mercato produrrà inevitabilmente entrambi alla fine, e qualsiasi azienda IA competitiva dovrà servire un po' di entrambi, ma potrebbe esserci un po' di margine per indirizzare le aziende verso l'innovazione quando possibile, e potrebbe farci guadagnare un po' di tempo. Anthropic sta pensando attivamente a questo. In terzo luogo, le aziende dovrebbero pensare a come prendersi cura dei propri dipendenti. A breve termine, essere creativi nei modi di riassegnare i dipendenti all'interno delle aziende potrebbe essere un modo promettente per scongiurare la necessità di licenziamenti. A lungo termine, in un mondo con un'enorme ricchezza totale, in cui molte aziende aumentano notevolmente di valore a causa dell'aumento della produttività e della concentrazione di capitale, potrebbe essere fattibile pagare i dipendenti umani anche molto tempo dopo che non forniscono più valore economico nel senso tradizionale. Anthropic sta attualmente valutando una serie di possibili percorsi per i nostri stessi dipendenti che condivideremo nel prossimo futuro. In quarto luogo, gli individui facoltosi hanno l'obbligo di aiutare a risolvere questo problema. Mi rattrista che molti individui facoltosi abbiano recentemente adottato un atteggiamento cinico e nichilista secondo cui la filantropia è inevitabilmente fraudolenta o inutile. Sia la filantropia privata come la Fondazione Gates che i programmi pubblici come il PEPFAR hanno salvato decine di milioni di vite nel mondo in via di sviluppo e hanno contribuito a creare opportunità economiche nel mondo sviluppato. Tutti i cofondatori di Anthropic si sono impegnati a donare l'80% della loro ricchezza. E il personale di Anthropic si è impegnato individualmente a donare azioni della società per un valore di miliardi ai prezzi attuali, donazioni che l'azienda si è impegnata a eguagliare. In quinto luogo, sebbene tutte le azioni private di cui sopra possano essere utili, in definitiva un problema macroeconomico di queste dimensioni richiederà l'intervento del governo. La risposta politica naturale a un'enorme torta economica accoppiata a un'elevata disuguaglianza è la tassazione progressiva. La tassa potrebbe essere generale o potrebbe essere mirata specificamente alle aziende di IA. Ovviamente, la progettazione fiscale è complicata e ci sono molti modi in cui può andare storta. Non sostengo politiche fiscali mal concepite. Penso che i livelli estremi di disuguaglianza previsti in questo saggio giustifichino una politica fiscale più robusta su basi morali fondamentali, ma posso anche fare un'argomentazione pragmatica ai miliardari del mondo. Se non sostengono una buona versione, ne riceveranno inevitabilmente una cattiva progettata dalla folla. In definitiva, penso a tutti gli interventi di cui sopra come modi per guadagnare tempo. Alla fine l'IA sarà in grado di fare tutto, e dobbiamo fare i conti con questo. La mia speranza è che entro quel momento possiamo usare l'IA stessa per aiutarci a ristrutturare i mercati in modi che funzionino per tutti, e che gli interventi di qui sopra possano aiutarci a superare il periodo di transizione. Concentrazione economica del potere separatamente dal problema dello spostamento del lavoro o della disuguaglianza economica in sé c'è il problema della concentrazione economica del potere. La sezione 1 discuteva il rischio che l'umanità venga privata di potere dall'IA, e la sezione 3 discuteva il rischio che i cittadini vengano privati di potere dai loro governi con la forza o la coercizione. Ma un altro tipo di privazione del potere può verificarsi se c'è una concentrazione di ricchezza così enorme che un piccolo gruppo di persone controlla effettivamente la politica governativa con la loro influenza, e i cittadini comuni non hanno influenza perché mancano di leva economica. La democrazia è in ultima analisi sostenuta dall'idea che la popolazione nel suo insieme è necessaria per il funzionamento dell'economia. Se quella leva economica viene meno, allora il contratto sociale implicito della democrazia potrebbe smettere di funzionare. Altri hanno scritto su questo, quindi non ho bisogno di entrare in grande dettaglio qui, ma sono d'accordo con la preoccupazione e temo che stia già iniziando ad accadere. Per essere chiari, non sono contrario al fatto che le persone guadagnino molti soldi. C'è una forte argomentazione che ciò incentivi la crescita economica in condizioni normali. Sono sensibile alle preoccupazioni di ostacolare l'innovazione uccidendo la gallina dalle uova d'oro che la genera. Ma in uno scenario in cui la crescita del PIL è del 10-20% all'anno e l'IA sta rapidamente prendendo il sopravvento sull'economia, eppure singoli individui detengono frazioni apprezzabili del PIL, l'innovazione non è la cosa di cui preoccuparsi. La cosa di cui preoccuparsi è un livello di concentrazione della ricchezza che spezzerà la società. L'esempio più famoso di concentrazione estrema della ricchezza nella storia degli Stati Uniti è l'età dell'oro, e l'industriale più ricco dell'età dell'oro era John D. Rockefeller. La ricchezza di Rockefeller ammontava a circa il 2% del PIL statunitense dell'epoca. Una frazione simile oggi porterebbe a una fortuna di 600 miliardi di dollari, e la persona più ricca del mondo oggi ha già superato quella cifra, con circa 700 miliardi di dollari. Quindi siamo già a livelli di concentrazione della ricchezza storicamente senza precedenti, anche prima della maggior di parte l'impatto economico dell'IA. Non penso sia esagerato immaginare che le aziende di IA, le aziende di semiconduttori e forse le aziende di applicazioni a valle generino entrate per circa 3 trilioni di dollari all'anno, siano valutate circa 30 trilioni di dollari e portino a fortune personali nell'ordine dei trilioni. In quel mondo, i dibattiti che abbiamo oggi sulla politica fiscale semplicemente non si applicheranno, poiché ci troveremo in una situazione fondamentalmente diversa. In relazione a ciò, l'accoppiamento di questa concentrazione economica della ricchezza con il sistema politico mi preoccupa già. I data center IA rappresentano già una frazione sostanziale della crescita economica statunitense e stanno quindi legando strettamente gli interessi finanziari delle grandi aziende tecnologiche e gli interessi politici del governo in un modo che può produrre incentivi perversi. Lo vediamo già attraverso la riluttanza delle aziende tecnologiche a criticare il governo statunitense e il sostegno del governo a politiche estremamente antiregolamentari sull'IA. Difese, cosa si può fare al riguardo? Primo, e più ovviamente, le aziende dovrebbero semplicemente scegliere di non farne parte. Anthropic ha sempre cercato di essere un attore politico e non politico, e di mantenere le nostre opinioni autentiche indipendentemente dall'amministrazione. Ci siamo espressi a favore di una regolamentazione sensata dell'IA e di controlli all'esportazione che sono nell'interesse pubblico, anche quando questi sono in contrasto con la politica governativa. Molte persone mi hanno detto che dovremmo smettere di farlo, che potrebbe portare a un trattamento sfavorevole, ma nell'anno in cui lo abbiamo fatto, la valutazione di Anthropic è aumentata di oltre 6 volte, un balzo quasi senza precedenti alla nostra scala commerciale. In secondo luogo, l'industria dell'IA ha bisogno di un rapporto più sano con il governo, uno basato su un impegno politico sostanziale piuttosto che sull'allineamento politico. La nostra scelta di impegnarci sulla sostanza politica piuttosto che sulla politica viene talvolta interpretata come un errore tattico o un fallimento nel leggere la stanza piuttosto che come una decisione di principio. E questa interpretazione mi preoccupa. In una democrazia sana, le aziende dovrebbero essere in grado di sostenere buone politiche per il loro stesso bene. In relazione a ciò, sta fermentando una reazione pubblica contro l'IA. Potrebbe essere un correttivo, ma attualmente è senza focus. Grandi parte, essa prende di mira questioni che in realtà non sono problemi e propone soluzioni che non affronterebbero le vere preoccupazioni. La questione sottostante che merita attenzione è garantire che lo sviluppo dell'IA rimanga responsabile verso l'interesse pubblico, non catturato da alcuna particolare alleanza politica o commerciale, e sembra importante concentrare lì la discussione pubblica. In terzo luogo, gli interventi macroeconomici che ho descritto in precedenza in questa sezione, così come una rinascita della filantropia privata, possono aiutare a bilanciare le scale economiche, affrontando contemporaneamente sia il problema dello spostamento del lavoro che quello della concentrazione del potere economico. Dovremmo guardare alla storia del nostro paese qui. Anche nell'età dell'oro, industriali come Rockefeller e Carnegie sentivano un forte obbligo verso la società in generale, la sensazione che la società avesse contribuito enormemente al loro successo e che dovessero restituire. Quello spirito sembra essere sempre più assente oggi, e penso che sia una in parte portante della via d'uscita da questo dilemma economico. Coloro che sono in prima linea nel boom economico dell'IA dovrebbero essere disposti a donare sia la loro ricchezza che il loro potere.